Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Frey e Olga. Ben ritrovate e ben ritrovati con Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, che in questa settimana vi parlerà di un paio di libri, ma vi parlerà anche di una nuova rubrica che andiamo ad inaugurare oggi. La rubrica in questione si intitola Le Petit X, un titolo che abbiamo già utilizzato nel finire della stagione 2017-2018 che abbiamo sottratto alla storica Sabina Loriga, una storica brasiliana che si è molto occupata di biografie, perché con questa puntata inauguriamo ufficialmente la nostra rubrica dedicata alla storia attraverso le biografie. Un genere particolare, non ci convince troppo forse, però sicuramente è una cosa di cui parliamo parecchio e anche in questa puntata ne andiamo a parlare. Esatto, l'11 luglio di questo 2018 ricorrevano i 20 anni dalla morte di Maria Soledad Rosas, la rivoluzionaria anarchica argentina accusata di ecoterrorismo in Valsusa, che si suicidò dopo il suo compagno Edoardo Baleno Massari. È la storia di Sole e Baleno, del loro suicidio in carcere, sullo sfondo delle mobilitazioni che si andavano strutturando in Valsusa. L'occasione per parlare di questa storia che si immerge nella fine degli anni 90 e che illustra una fase della recente storia italiana nasce dalla traduzione in italiano di un libro di Martin Caparros, Amore e Anarchia, la vita urgente di Soledad Rosas, 1974-98, edito da Einaudi, che venne scritto nel 2003 in Argentina con lo scopo di raccontare una storia italiana ai lettori argentini. Il punto da cui partire per comprendere questo libro è proprio questo. L'autore, che è un noto periodista argentino, porta la storia di Soledad, che noi collochiamo al centro di un dibattito italiano, come la tragica vicenda giudiziaria di repressione di Sole e Baleno. Questa storia è prima di tutto la storia di una giovane donna che parte dal Sud America per arrivare fino a Torino, dove scopre quello che lei stessa definì il suo posto. Eccoci di nuovo, stiamo parlando del libro di Martin Caparros che abbiamo appena sentito. Il libro è Amore e Anarchia, la vita urgente di Soledad Rosas, 1974-1998, e noi abbiamo rivolto queste domande a Martin Caparros perché innanzitutto avevamo l'occasione, perché si trovava lì, un po' perché volevamo cercare di inquadrare meglio questo suo libro, che è un bel libro. Naturalmente non è un libro interno che proviene dal movimento, è un libro scritto da un giornalista, se vogliamo, borghese, secondo una vecchia definizione. Però è un libro molto interessante che racconta con cura questa storia. La storia è quella per l'appunto di una giovane rivoluzionaria di questa donna argentina. Viene raccontata la storia di Soledad in Argentina, ricorrendo poi, fra l'altro, e questo secondo me è l'aspetto più interessante, a delle fonti molto belle, che sono innanzitutto le interviste con i familiari e le persone che le sono state vicino, sia in Argentina che in Italia, ma soprattutto ricorrendo al diario e alle lettere, che sembra passato poco tempo, ma in 20 anni i cambiamenti si sono sentiti, per cui all'epoca era normale che una ragazza argentina che si trovava in Italia scrivesse ai propri familiari delle lettere. Oggi lo faremo come con delle mail, ed era normale che una ragazza argentina che si trovava sola in Italia scrivesse un proprio diario. Il libro, dicevamo, è molto interessante, ricostruisce tutta la vita di Soledad Rosas, sia quando era ancora Soledad Rosas, sia quando poi è diventata, fra virgolette, Sole per i compagni torinesi, con quel nome che poi l'ha accompagnata fino all'estremo gesto, che è quello che è stato quello del suicidio in carcere. Naturalmente poi, in tutto questo, senza dimenticare di raccontare anche quello che è stato il contesto in cui Soledad è arrivata, quindi c'è il contesto della Torino degli squat, della Torino degli anni 90, delle nascenti lotte per la difesa della Val Susa. Di questo poi ne riparleremo. Esatto, allora noi, con questa bella introduzione di Frey, ci andiamo a sentire la breve intervista che abbiamo fatto a Martin Caparros a inizio ottobre al Festival Internazionale. Come è stato costruito Amore e Anarchia? Qual è stato il percorso di ricerca che c'è stato fatto dietro? Ma prima ho provato di ricostruire un po' la vita di Soledad in Argentina, perché io ho conosciuto la vicenda quando ero lì e dunque sono andato a trovare gli amici, i parenti, tutti quelli che mi hanno dato un'idea generale di come era lei prima di partire. E dopo sono venuto all'asilo occupato in settembre 2001 e sono stato lì per forse quattro settimane, non mi ricordo. Loro mi hanno invitato a rimanere lì con loro, mi hanno dato una stanza e ho condiviso la loro vita. È stato molto interessante, non soltanto purtroppo per ricostruire la vita di Soledad, ma anche per capire un po' questo movimento. E vista con gli occhi dell'Argentina, com'era questo movimento, che è stata una particolarità molto, molto italiana? Sì, ma era molto diverso di quello che io conoscevo come militanza. Io sono stato militante, ho avuto una militanza forte negli anni 70 in Argentina, ho dovuto partire dopo l'esilio, ma era un'esperienza assolutamente diversa, perché per noi militanti più classici la militanza era una maniera di sacrificio per costruire più tardi una vita che ci piaceva, che ci sembrava logica e corretta, tutto quello, mentre che questi anarchici che ho conosciuto all'asilo dicevano che loro volevano vivere già stesso secondo la loro idea, e quello per me è stato una differenza importante, anche una scoperta che mi ha interessato particolarmente. E come un'altra domanda, com'è stata raccontata allora la storia di Sole, e come viene recepita oggi la storia di Sole in Argentina? Perché in Italia è rimasta molto legata a quel momento, è una storia legata alla lotta contro i treni, contro la TAV, sì, in Val Susa, ed è rimasta un'immagine del movimento libertario, del movimento in generale italiano. Non so che cosa dirti. Credo che ovviamente il contesto politico è molto più, meno, si capisce meno in Argentina, non si sa che è il TAV, che è il movimento anarchico del nord d'Italia, tutto quello non si sa molto. Si sa che c'era un'Argentina, una giovane Argentina che aveva partecipato a tutto quello, è diventata un po' una eroina romantica, ma la sua parte più politica si è un po' perduta, no? Eccoci, siete sempre su Valluna, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. In questo sabato stiamo parlando di una biografia, la Amore e Anarchia, la vita urgente di Soledad Rosas, di Martín Caparrós, un giornalista argentino, il libro dedicato per l'appunto all'anarchica Soledad. Il libro, come avete percepito dalle domande che abbiamo rivolto a Martín Caparrós, manca un po' di contestualizzazione. È un libro che, come lui ci ha detto nell'arco della presentazione a una delle nostre domande, è un libro che è pensato per l'Argentina più che per l'Italia. Cioè, quindi la TAV, il contesto politico del movimento Squatter viene raccontato, certo, ma rimane un po' sullo sfondo, come rimangono sullo sfondo in un certo senso anche le lotte che vennero condotte contro l'arresto di Sole Baleno. Per entrare meglio in quella che è la componente italiana della storia di Soledad Rosa, ci prendiamo lo spazio per un'altra intervista. Ci siamo rivolti al libro Le scarpe dei suicidi, Sole, Silvano, Baleno e gli altri, dello storico e militante anarchico torinese Tobia Imperato, edito dalla autoproduzione Fenix. Pur ricorrendo alle stesse fonti cui fa riferimento anche Caparrós, questo libro si colloca e si propone l'obiettivo di ricostruire la vicenda anche nel contesto che la produsse, senza rinunciare ad uno sguardo assolutamente partigiano. Infatti non mancano da parte sua commenti personali e riferimenti all'esperienza proprio dell'autore. Questo libro infatti entra nello specifico della campagna che venne condotta dalla magistratura e dalla stampa contro i tre squatter e racconta anche in maniera più dettagliata e meno emotiva l'impatto che ebbe sul movimento torinese. L'arresto dei tre della casa occupata di Collegno, infatti, fu il punto di arrivo di una persecuzione giudiziaria che affondava le sue radici nel passato di carcerazione di Massari e di Pellissero, cosa che ne aveva fatto delle vittime perfette per una campagna mediatica e per la creazione di un incubo ecoterrorista, e nelle altre inchieste anche che venivano condotte contro quella parte del movimento che può essere definita anarco-insurrezionalista, come nel caso dell'indagine De Ross del 1996. Ok, adesso diamo la parola a Tobia Imperato che abbiamo ai nostri microfoni. Bene, grazie mille Tobia Imperato per essere in collegamento con noi, ben trovato su Valluna. Ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, partiamo da questo libro, Le scarpe dei suicidi, che ha costituito di fatto il primo testo disponibile in italiano sulla vicenda di Sole, Baleno e Silvano, cosa molto importante che ricordi anche nel sottotitolo, con Sole, Baleno e Silvano e gli altri. Allora, volevo chiederti, in che maniera hai costruito il tuo testo? E soprattutto mi interessava questo per cercare di capire come, da storico quale sei, ti sei rapportato con una vicenda così tanto vicina a te, così contemporanea e che ti ha visto anche coinvolto in una certa misura. Quindi, come hai costruito Le scarpe dei suicidi e come hai gestito la componente politica e soggettiva all'interno del libro? Beh, io, prima, come hai già detto, storico è una parola grossa, però mi occupo di studi storici del movimento operaio sugli anarchici e ho cercato di costruire il libro con una forma, un'architettura da storico, però al tempo stesso mi rendevo conto che sarebbe stato noioso, infatti molti mi criticano per la pesantezza delle note. E allora ho cercato di, invece nel testo scritto, che si può leggere a prescindere dalle note, di usare un linguaggio parlato, un linguaggio che fosse accessibile anche all'uomo della strada, a chiunque, insomma. E quello è il come ho costruito il libro. Per quanto riguarda invece la parte politica, come hai già detto, io sono stato protagonista di quelle vicende, nel senso che mi sono subito attivato appena sono stati arrestati i tre ragazzi nella campagna di solidarietà insieme agli altri e quindi queste vicende le ho vissute in prima persona, non tutto chiaramente, perché ci sono anche cose che poi riporto nel libro che avvengono in altre parti fuori da Torino in cui io non ero presente chiaramente. Per quanto riguarda il rapporto politico, io sono anarchico, adesso ho 64 anni, sono anarchico dall'età di 15 anni, quindi non mi sono mai schierato con nessun fronte o rapporti personali con anarchici di tutte le categorie, amichevoli e politici, dai più tiepidi, di non so, anche Carissi, i compagni dell'Usi, ai più quelli che si definiscono, si autodefinivano, adesso sembra che non si definiscono più così, io non voglio entrare nel merito, comunque gli anarco-insurrezionalisti e insurrezionalisti. Io non ho problemi a confrontarmi con nessuno, ho le mie idee, ma non mi sono mai schierato con nessuno. E ho cercato nel libro di dare spazio a tutte le componenti, a tutte le cose. Chiaramente gli anarchici sono rissosi, c'erano anche una serie di polemiche tra l'area che si definiva squatter e l'area invece anarco-insurrezionalista. In queste polemiche io non mi ci sono addentrato personalmente, però per certi aspetti forse ho dato più simpatia all'area squatter. E questa è un'accusa che mi viene mossa anche del fatto che si dice Sole Baleno erano e Silvano erano insurrezionalisti, non erano squadre, che questo è un equivoco, perché all'epoca a Torino c'erano ben 8 case occupate di segno anarchico, oltre a 4 comuniste, e ognuna aveva una sua fisionomia, una sua forma mente, però tutte insieme avevano un circuito che si chiamava Torino Squattere, quindi non c'era nessuna demarcazione ideologica tra una casa e l'altra, anche se ognuna aveva una sua fisionomia precisa e diversa, c'erano compagni che la pensavano in un modo e compagni che la pensavano in un altro. Ecco Tobia, guarda, ti chiedo proprio di entrare un pochino più in questo punto, nel senso che noi siamo partiti con questa puntata parlando del libro di Martin Caparro, Samone e l'anarchia, che è un libro, come abbiamo già detto, che è un libro molto argentino, nel senso che pur essendo abbastanza documentato, pur essendosi poi lui confrontato con la tua ricerca in quel periodo, secondo me fa poco emergere quello che era il contesto torinese. Ci puoi aiutare ad entrare in quella che era stata quella che tu stai descrivendo come la Torino degli anni 90, ma anche nella lotta contro il TAV, che stava muovendo in quel periodo i suoi primi passi, diciamo? Anche qui c'è anche un grosso equivoco da... le cose sono legate, ma i movimenti non erano assolutamente in contatto. La Torino delle occupazioni era un movimento in forte ascesa in quel periodo, come ho detto, 8 case, insomma non sono cosa da poco, era un movimento anche che rifiutava ogni forma di regolarizzazione e dialogo col potere. Infatti sono usciti 2 opuscoli editi di squadre torinesi, di cui tra l'altro uno sono stati entrambi ristampati recentemente, sì, possono richiedere, che sono proprio contro la legalizzazione degli spazi occupati. Questi opuscoli erano usciti prima chiaramente della storia di Sole Baleno, ed erano contro la famosa carta di Milano delle tutte bianche, quella che proponeva di farsi interlocutori del potere, e quindi era una situazione molto interessante per la combattività anche che avevano queste case, che rifiutavano appunto di avere ogni dialogo col potere. E poi chiaramente la storia di Sole Baleno ha dato una botta sia sul piano repressivo, perché ci sono stati degli sgomberi, come anche descrivo nel libro, sia anche una svolta, che non è stato impedito, e da allora per esempio solo un'occupazione che c'è attualmente, il Mescal, che è fuori a Collegno, sulla cintura di Torino, è riuscita a sopravvivere. Tutte le altre occupazioni, specialmente quelle nell'area urbana, sono state tutte sgombrate, ce ne sono state tante fino ad oggi. E quindi invece il movimento Notav muoveva all'epoca i primi passi, quindi si parla i primi vagiti del movimento Notav a Susino risalgono appunto in quegli anni, 95-96, però non c'era nessun contatto con le case o col movimento torinese, anzi gli stessi valigiani erano abbastanza diffidenti nei confronti di quelli di fuori, insomma, non con gli anarchici o con qualcuno in particolare. quindi è stato un processo lungo di solidarietà e di percorsi che poi ha portato a un riavvicinamento che però avviene in epoca successiva. Infatti io cito nel libro che ci fu nel 2000, mi sembra, adesso non vorrei sbagliare la data ma mi sembra giusta, ci fu un incontro italo-francese a Torino a Palazzo Reale, incontro governativo, e per la prima volta il movimento Notav della Valsusa scese a Torino e in quell'occasione si unirono quelli dei compagni dei torinesi, dei centri sociali, anche comunisti, delle case occupate, e gli squatter avevano uno striscione appunto Sole Baleno suicidati ad alta velocità. Ed è quello stato forse il primo momento di lotta comune, al di là di alcuni compagni della valle che frequentavano anche l'Italia ed erano anche nel movimento, però era più una cosa individuale e personale che un rapporto di collaborazione, di solidarietà. Bene, Tobia, grazie mille per la disponibilità e per essere stato con noi a Vallunna. Va bene, vi saluto a voi e a tutti gli ascoltatori. Alla prossima volta. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata, siamo arrivati alla fine di questo primo appuntamento con le Petite X, la nostra rubrica che dedichiamo alle biografie, alle storie e alla storia ricostruita tramite le biografie, e vi abbiamo condotto all'interno della storia di Soledad Rosas, Sole, più comunemente. Abbiamo parlato di due libri, di cui uno è il libro di Martin Caparros, Amore e Anarchia, che è uscito quest'anno per Einaudi, l'altro è Le Scarpe dei Suicidi di Tobia Imperato, uscito per le autoproduzioni Phoenix. E direi che per oggi è tutto. Esatto. Questa puntata, insieme alle altre puntate che abbiamo fatto al sapore di biografia, diciamo, e tutti i nostri podcast li trovate al nostro sito www.radiovallun.info. Direi che per oggi è tutto e buon pomeriggio da Olga e Frey. Ciao! Con la polizia e dai miei occhi che vedevano portarti via tra le bestemmie santi, in strada i lampeggianti brillavano le lacrime più forte dei diamanti. Momenti forti ma non si cancellano gli sguardi, e ti ho riconosciuto in macchina con quei bastardi. Un'altra cicatrice al cuore, non so prendere corpo, senza di te questo dolore non avrà conforto. Per ogni porco ed ogni fame un attacco all'anello, questa canzone porta il nome di ogni mio fratello. Se dentro una cella nel silenzio dell'isolamento sentirai gridare il nome quando fischia il vento. Sempre più buio, ogni notte un'angoscia fottuta, non c'è modo di capirla se non l'hai vissuta. Coi denti stretti il calendario corre nella mano per Tizio, Dario, Filippo, Giolini e Graziano. Il primo nemico resta sempre chiaro, per gli spiriti e per le spie che differenza c'è? Per i miei dentro l'inferno carcerario, PSM resta con te. Per dare luce alle speranze degli amici che nel buio di una cella sta cercando te, perché si parte insieme e si ritorna insieme. Non basterà una sbella, non basterà una cella, il freddo in bocca della canna di una rivoltella. Non basterà lavare il sangue versato per terra, resta indelebile, l'odio non si cancella. Non cancellare un uomo, non sappiare le prove, la rabbia di chi resta non lo cancella il sole. In un baleno è già sereno dopo il temporale, sai che torneremo quando la temperatura sale. Sul palco del locale, in aula e in tribunale, negli occhi di un compagno che non vuol parlare. Allo stadio in ogni yard, nelle casse del tuo bar, per la vita che facciamo e che non vuole cambiare. No, fino a quando ogni divisa non sarà in ginocchio, per gli abusi e le torture ogni singolo ha morto. Fino a quando ci saranno lacrime sui corpi, Abba Bull Brigade, DSM senza rimorsi. Il primo nemico resta sempre chiaro, per gli sfidi e per le spie che differenza c'è? Per i miei dentro l'inferno carcerario, DSM resta con te. Per dar luce alle speranze degli amici che nel buio di una sotto il sole, come sotto la neve, senza avere paura di pantere e di iene. Sai che c'è chi non scorda le parole più vere, quando si parte insieme, poi si ritorna insieme. La forza è questa qua, si chiama solidarietà, e non la puoi fermare, e non si fa legare.